GR24, il sole 24 ore. Draghi, la BCE ha evitato scenari disastrosi per l'euro. Niente accordo intanto a Bruxelles sul nuovo bilancio dell'Unione Europea. No alla regolarizzazione dei conti correnti bancari in nero. Il Parlamento tedesco boccia l'intesa con la Svizzera perché l'aliquota sarebbe troppo generosa. Primarie di centrosinistra, Bersani al 43% secondo l'ultimo sondaggio, ma Renzi andrebbe con il segretario al ballottaggio. Intanto il sito e le primarie per il bene comune dove registrarsi è in tilt. E poi in Afghanistan, bomba contro la stazione di polizia, colpito anche un centro di emergency. Buongiorno Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati, nuova edizione di GR24. In apertura le parole di Mario Draghi a Francoforte. Il governatore della Banca Centrale Europea ha detto che la BCE è stata un credibile freno di fronte ad eventi disastrosi. Tutte le parole di Draghi nel giorno in cui però a Bruxelles è bloccato l'accordo sul nuovo bilancio. Dicevamo, tutte le parole di Draghi, ce le racconta il nostro Alessandro Merli. Buongiorno Alessandro. Sì, buongiorno. Draghi appunto ha guardato a quello che è successo nell'ultimo anno, quando la BCE è dovuta intervenire ripetutamente per salvare l'Eurozona, ma ha anche guardato avanti al futuro dell'Unione monetaria, che passa inevitabilmente attraverso un'unione bancaria, o come preferisce chiamarla Draghi, un'unione finanziaria. E questa vorrà dire sottoporre tutte le banche dell'Unione Europea, oltre 6.000, alla supervisione della Banca Centrale Europea, anche se naturalmente in collaborazione con le banche centrali nazionali, e per cercare di interrompere quella frammentazione del sistema finanziario, che è quello che più sta danneggiando in questo momento la zona euro. Il sistema, ha detto Draghi, va costruito attorno alla BCE, questa è l'unica soluzione pragmatica. Devo dire che proprio in questi istanti sta parlando qui a Francoforte, alla stessa conferenza, il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, e come al solito è un po' più cauto e un po' più scettico rispetto alle parole di Draghi. Comunque Draghi ha detto un'altra cosa importante: va fatta questa supervisione unica perché è indispensabile per la zona euro, ma va fatta soprattutto nei tempi giusti, ma va fatta bene. Grazie allora ad Alessandro Merli. Dunque questo il discorso di Mario Draghi oggi a Francoforte, nel giorno, dicevamo, in cui è lontano l'accordo a Bruxelles sul nuovo bilancio dell'Unione Europea. Penso che non sarà possibile raggiungere un accordo, ha detto anche in mattinata la cancelliera tedesca Merkel. Quali sono le divisioni tra i 27 paesi? Lo chiediamo al nostro Beda Romano da Bruxelles. Beda, buongiorno. Buongiorno. Ma le divisioni sono quelle fondamentalmente che si sono dimostrate nelle ultime settimane. Ci sono paesi che vogliono una riduzione sostanziale del bilancio europeo, e ci sono invece paesi che dall'altra parte dello spettro politico vogliono mantenere un bilancio che possa essere utilizzato per l'agricoltura e per la coesione e per lo sviluppo economico. Questi due paesi, questi due gruppi di paesi sono affrontati ieri, quando il Presidente del Consiglio europeo ha presentato una nuova bozza di compromesso. La bozza non è piaciuta ad alcuni paesi, è piaciuta di più ad altri, l'Italia è fra questi. Mi sembra che l'Italia e la Francia possano dirsi abbastanza soddisfatti della nuova bozza, perché è una bozza che ridà un po' più di peso all'agricoltura e alla coesione. Il problema è trovare un accordo che soddisfi tutti e soprattutto che soddisfi la Gran Bretagna e la Germania, che sono in questa occasione paradossalmente due alleati. Ambedue vogliono ridurre ulteriormente il bilancio. Quindi i 27 leader si sono rincontrati questa mattina a livello bilaterale, la plenaria a 27 dovrebbe cominciare a breve, e capiremo nel corso del pomeriggio se un accordo è fattibile o se invece si va verso un rinvio. Grazie, grazie allora anche a Beda Romano per questi aggiornamenti sulla lunga e per ora difficile trattativa tra i 27 dell'Unione Europea, come sentivate, per un nuovo bilancio dell'Unione. Adesso andiamo sui mercati finanziari Con queste notizie alle spalle, Deborah Rosciani, buongiorno, ben ritrovata. Sì, com'è la situazione? La situazione è che le borse europee sono sulla parità a metà seduta. Hanno avuto una mattinata piuttosto oscillante in attesa dell'esito della riunione dei leader europei che, come appunto raccontavamo poco fa, tentano di trovare un accordo sul nuovo piano di bilancio. Va ricordato anche che il mercato attende la prossima riunione di lunedì dell'Eurogruppo, quell'Eurogruppo che dovrà prendere una decisione sullo sblocco degli aiuti alla Grecia. Vediamo allora come si comportano gli indici del vecchio continente. Londra più 0,07%, Parigi ferma sulla parità, Francoforte più 0,01%. Stamattina peraltro il mercato tedesco ha guardato alla diffusione dell'IFO, l'indice di fiducia delle imprese tedesche, risultato nell'ultima statistica inaspettatamente in rialzo. Milano meno 0,29%, Milano particolarmente volatile, è arrivata a perdere anche lo 0,7% stamattina per poi recuperare. Stanno scendendo le banche, stanno scendendo i titoli media, Setansaldo, Fiat, mentre in positivo troviamo di nuovo Buzzi Unicem e A2A, che questa mattina ha emesso una maxi omissione obbligazionaria, appunto, che è durata solo oggi. L'euro sul dollaro a 1,2897, lo spread fra BTP e Bund continua a scendere leggermente, siamo sui 338 punti base. Oggi riprendono le contrattazioni a Wall Street dopo la pausa di ieri per la giornata del ringraziamento, però si lavorerà solo per mezza giornata. In America per ora è tutto. Grazie Deborah. E ancora una notizia di economia, perché mentre in Italia si discute, si parla di un possibile accordo con la Svizzera per la regolarizzazione di conti correnti bancari, dalla Germania arriva invece un inatteso stop del Parlamento tedesco all'accordo che era stato raggiunto dal governo tedesco con la Svizzera proprio sui conti correnti. Sentiamo. Clamoroso no del Bundesrat, la Camera del Länder tedesca, che ha bocciato oggi l'accordo fiscale con la Svizzera a un passo dalla sua ratificazione. L'accordo riguarda i conti dei cittadini tedeschi non dichiarati nelle banche svizzere. Se non sarà deciso il ricorso a un arbitraggio per trovare una soluzione, l'accordo, che doveva entrare in vigore dal 1 gennaio 2013, decadrà. La Camera Alta aveva già approvato l'intesa in ottobre e martedì il ministro delle Finanze Schauble aveva rivolto un appello ai partiti dell'opposizione che hanno la maggioranza al Bundesrat perché dessero via libera all'intesa. Socialdemocratici e Verdi, però, avevano già confermato le loro riserve, secondo le quali l'accordo tratta troppo generosamente gli evasori fiscali. L'intesa prevede il pagamento di un'imposta retroattiva che va dal 21 al 41% sui fondi depositati in Svizzera dai cittadini tedeschi e per il futuro l'applicazione dell'aliquota valida in Germania del 26%. Trattati simili sono stati già conclusi da Berna con la Gran Bretagna e l'Austria. Altri sono in via definizione con la Grecia e anche l'Italia, dalla quale arriva un no comment. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo in Italia con la politica. 48 ore dalle primarie di centrosinistra, gli ultimi sondaggi, il testa a testa previsto tra Bersani e Renzi, poi il sito del PD dovrà registrarsi che è in tilt. Queste le notizie da una parte, dall'altra invece nel centrodestra si annuncia Lamberto Dini presidente della commissione delle primarie, ma sentiamo. Dopo riunioni e polemiche, nel Popolo delle Libertà passa la linea Alfano, le primarie si faranno nella data prevista, cioè il 16 dicembre, il segretario del PDL nega contrasti con Berlusconi, che comunque anche ieri avrebbe ribadito tutte le sue perplessità sulla consultazione popolare. Tra faide interne e scissioni, ieri quella del gruppo di Isabella Bertolini, il vero timore dei vertici del PDL in queste ore è però che il Cavaliere stia lavorando ad una sua nuova lista, il dinosauro da tirare fuori dal cappello, per usare le sue parole. Ben altro clima si respira invece nel centro-sinistra. A 48 ore dalle sue primarie sono oltre 1 milione gli italiani che si sono già registrati per il voto e domenica nei 9.000 seggi saranno impegnati più di 100.000 volontari. Per i 5 candidati queste sono le ultime ore di campagna elettorale. Gli ultimi sondaggi danno in vantaggio Bersani, vicino alla soglia del 50% che gli garantirebbe la vittoria al primo turno. Il diretto interessato oggi, forse anche per scaramanzia, si dice comunque convinto che si andrà al ballottaggio, dove potrebbe vedersela con Renzi, che sempre secondo i sondaggi viaggia invece attorno al 30% dei consensi. Sensi 10 punti in più rispetto a Vendola, mentre Puppato e Tabacci non dovrebbero superare il 5%. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E proprio Roma si prepara ad un'altra giornata difficile con la manifestazione attesa per domani degli studenti. Tanto oggi, da un'altra parte, a Venezia, sono arrivati nuovi fischi per il ministro Fornero. 4 manifestazioni autorizzate, più altri sit-in e cortei più o meno improvvisati, il tutto in un centro storico blindato. Roma si prepara ad un'altra ennesima prova, a preoccupare soprattutto il corteo degli studenti medi e universitari intenzionati ad arrivare sotto i palazzi del potere. Il corteo sarà pacifico e senza scontri, assicurano come sempre gli studenti, ma non dovranno esserci blocchi delle forze dell'ordine e dunque è difficile fare previsioni. Si allenta intanto la tensione per il corteo nazionale di Casa Pound, che ieri mattina ha annunciato un cambio di percorso. I militanti di estrema destra non sfileranno più per le vie del centro, ma da Piazza Mazzini a Ponte Milvio. Cambio di location anche per il sit-in della CGIL, che dopo il passo indietro di CISL e UIL non si terrà più a Piazza del Popolo, ma a Piazza Farnese. E agli studenti invia un messaggio oggi il ministro del lavoro: sono disposta al dialogo, ma no agli insulti, ai pregiudizi e alla violenza, dice Elsa Fornero. Parole indirizzate in particolare ai giovani che in queste ore stanno sfilando in corteo a Venezia per contestare l'arrivo in città del ministro per un convegno. E intanto linea dura del ministro dell'interno Cancellieri, che ha annunciato l'eventualità di applicare l'arresto differito utilizzato per i tifosi anche per i manifestanti violenti. Del resto, dice la Cancellieri, ci stiamo preparando a momenti difficili per l'ordine pubblico. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Era il momento di tirare qualche riflessione dal punto di vista politico con Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Cosa ha voluto dire Giorgio Napolitano ai suoi concittadini e forse anche a qualche governo amico? L'impressione è che abbia soprattutto voluto preservare Mario Monti dal logorio di una contesa politica in cui rischiava di essere risucchiato senza colpa. Il capo dello Stato lo ha confermato in quel ruolo di riserva istituzionale che non può essere confuso con le mansioni di un capo partito, a maggior ragione capo di un partito che non c'è e che andrebbe costruito dalle fondamenta in tempi strettissimi. Si capisce che questa uscita non sia piaciuta da alcuni settori del PDL, ai centristi, alle nuove liste della società civile, pensavano di usare il nome di Monti come scorciatoia per il successo. Ma nulla vieta che questi gruppi continuino a ispirarsi al programma e alla figura del Premier. Quello che non si può fare, secondo Napolitano, è usurare Monti e sottrargli una prospettiva che dopo le elezioni potrebbe renderlo ancora utile al Paese. Se a Palazzo Chigi, al Quirinale o in un altro ruolo, si vedrà. Ma senza smarrire quella serietà e quella credibilità internazionale che è stata la cifra di questa stagione. Con il Natale in vista e con il Natale che è il momento clou per i consumi, ci sono nuove previsioni nere dei commercianti per il commercio. Il 2012 sarà forse l'anno peggiore della crisi, sostiene il presidente di Confesercenti Marco Venturi. Si fanno sentire sempre più pesantemente la lunghezza della recessione, ha detto, gli effetti dell'aumento della pressione fiscale, il tracollo dei consumi interni. E intanto le vendite rallentano anche negli Stati Uniti. Oggi per gli Stati Uniti è Black Friday, il venerdì che segue il giorno del ringraziamento e che tradizionalmente dà il via alla stagione degli acquisti natalizi. Un giorno di grandi offerte e grandi affari, sconti che non mancheranno nemmeno quest'anno, ma alla grande corsa all'acquisto del fine settimana che inizia oggi, secondo le previsioni parteciperanno 147 milioni di persone rispetto ai 152 milioni di americani dello scorso anno. Tra novembre e dicembre l'Associazione Nazionale degli Esercenti Americani prevede un aumento del 4,1% delle vendite, in rallentamento rispetto al più 5,6% del 2011. E anche se le vendite attraverso internet continuano a crescere, non sono sufficienti a colmare il calo di quelle offline. È poi vero, come fanno notare alcuni esperti, che la crisi ha fatto sbocciare sconti distribuiti durante tutto l'anno, un ulteriore elemento che fa sgonfiare un po' la bolla del Black Friday. Enrico Pagliarini, Radio 24, il Sole 24 Ore. Andiamo in Medio Oriente. Oggi un palestinese è stato ucciso dal fuoco dei militari israeliani nel sud della striscia di Gaza. Nuove schermaglie dunque ai confini tra i due paesi. Salutiamo Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore. Ugo, buongiorno. Buongiorno. Questo episodio offusca in qualche modo la tregua. Beh, certamente sì, nel senso che dà tutto il senso della tensione e anche poi in fondo dell'odio fra i due popoli che cova, la prima occasione si spara. Però è anche vero che Israele ha messo l'errore, le autorità israeliane l'hanno ammesso, quindi questo non dovrebbe mettere in discussione comunque la continuazione della tregua, che comunque resterà sempre molto tenue fino a che non si inizia anche un processo politico. E è stata proprio Hillary Clinton a parlare di una soluzione definitiva, ma Ugo, secondo te quanto siamo vicini o lontani da una soluzione? Beh, quantomeno lontani fino a gennaio, nel senso che a gennaio ci saranno le elezioni israeliane, adesso dopo tutto sommato la sconfitta o quantomeno la non vittoria israeliana Bibi Netanyahu in difficoltà, è quello che si augura l'amministrazione americana, è di dover avere a che fare, ma questo anche gli egiziani, la diplomazia europea e quella mondiale, si augura di avere a che fare con un primo ministro israeliano diverso da Bibi Netanyahu. Quindi fino a gennaio non credo che si metterà in moto qualcosa di importante. Grazie, grazie anche a Ugo Tramballi. Dunque, queste le notizie che vengono dal confine tra la striscia di Gaza e Israele. Spostiamoci invece in Afghanistan, dove una bomba esplosa contro una stazione di polizia, Vardak, a un'ora da Kabul. Almeno due persone sono morte, un centinaio però i feriti. È stato colpito anche un posto di primo soccorso di emergency. Due infermieri afghani che lavorano per la ONG italiana sono rimasti feriti. La nostra Katia Caramelli ha raggiunto Cecilia Strada, presidente di Emergency. L'attentato è stato a circa 800 metri dal nostro posto di primo soccorso. L'esplosione è stata a circa 800 metri e ovviamente l'onda dell'esplosione ha coinvolto anche il nostro presidio, ha tirato giù tutti i vetri, tutte le porte. Abbiamo due dei nostri infermieri afghani che si sono feriti in modo lieve. Ci sono stati decine di feriti in questa esplosione contro questa base. Noi abbiamo ricevuto presso il centro chirurgico 35 feriti, tra cui 5 bambini. A noi lo scorso agosto abbiamo battuto il record di feriti di guerra rispetto all'anno precedente, e l'anno precedente avevamo battuto il record dell'anno precedente ancora. Per cui noi che vediamo la guerra dal punto di vista delle vittime e degli ospedali per vittime di guerra, sì, vediamo sempre più feriti. Torniamo in Italia per una notizia che riguarda la politica. A fine serata è arrivato il marcio indietro, dichiarato inammissibile l'emendamento al decreto sviluppo, anche se è stato riscritto, presentato dal PDL, che voleva introdurre un quarto grado di giudizio nell'ordinamento giudiziario con effetto retroattivo. Si sarebbe potuto far ricorso contro sentenze passate in giudicato dopo il terzo grado. E polemiche subito sono scoppiate sul sospetto che l'emendamento rappresentasse l'ultima legge ad personam per tutelare gli interessi di Silvio Berlusconi, a partire dalla sospensione del lodo Mondadori, per cui è attesa a breve la pronuncia della Cassazione. Sentiamo Maurizio Carbone, segretario dell'ANM, al microfono di Anna Marino. Questo emendamento ha subito suscitato da parte nostra grosse perplessità, anzitutto per il metodo, perché inserire una sorta di quarto grado di giudizio nel decreto sviluppo senza un'attenta valutazione da parte di quelle che sono le commissioni competenti e in un decreto che si riferisce ad altra materia è prima di tutto un errore nel metodo, ma poi soprattutto nei contenuti. Oggi il nostro sistema di giustizia soffre soprattutto la lunghezza dei processi. E quindi sarebbe stato ingolfato. È questo che preoccupa i cittadini, e introdurre un quarto grado di giudizio che allontana un accertamento definitivo della verità è sicuramente una proposta incoerente con quelle che sono attualmente le esigenze del nostro sistema. Quindi una norma davvero controproducente che è bene che non sia stata, che non abbia avuto seguito. Ora parliamo dell'assalto al pub di Campo dei Fiori contro i supporter del Tottenham, che ha causato 7 feriti e 2 fermati per tentato omicidio nella capitale. Questa volta c'è stata un'alleanza inedita, picchiatori della Roma in azione coi nemici laziali. L'azione sarebbe stata preparata da un ambulante e da un operaio. I londinesi sarebbero stati scambiati per supporter del West Ham, squadra verso la quale a Roma ci sono vecchi rancori. Ma sentiamo da dove nasce l'origine ebraica del Tottenham, una caratterizzazione che richiama l'ostilità degli ultra avversari. Quasi sempre vengono accolti con un sibilo, che non è un invito al silenzio, ma è il più atroce richiamo a un campo di concentramento, il sibilo del gas. È dura la vita dei supporter del Tottenham, chiamati Armata Yiddish, che hanno subito l'assalto nel pub in Campo dei Fiori. La maggioranza degli Spurs, così si chiamano i tifosi del Tottenham, vivono nella zona nord di Londra, da sempre folta comunità ebraica. Ai primi del Novecento, quando il Tottenham imbocca la via del professionismo, i suoi fondatori sono ebrei, come l'attuale presidente Daniel Lay. branco di ebrei, ehi giù, è il modo più simpatico con cui vengono schermiti. Per reagire, molti di loro, anche non ebrei, indossano maglie o stemmi yiddish, ma questo tipo di orgoglio viene evitato da altre tifoserie europee, come gli olandesi dell'Ajax o gli ungheresi dell'MKT. Per loro è sbagliato sventolare l'ebraicità stimolando l'idiozia, e in questo ultimo stadio della ragione dire chi abbia ragione è davvero difficile. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto, Alessio Maurizio in studio, Matteo Comes in regia, vi augurano buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buongiorno da Marta Cagnola. In apertura agli ascolti TV vola la fiction Un passo dal cielo 2 con protagonista Terence Hill. 7.079.000 spettatori, pari al 25,50% di share. Il debutto di Un minuto per vincere con Nicola Savino ha totalizzato su Rai 2 il 6,70% con 1.778.000 spettatori, in linea con l'esordio di Pechino Express. Parte oggi il Festival di Torino e il direttore artistico Gianni Amelio ha risposto al rifiuto di Ken Loach di ricevere il Gran Premio perché i lavoratori utilizzati dalla manifestazione sarebbero, a suo dire, sfruttati e sottopagati. Il suo, ha dichiarato Amelio, è stato un gesto narcisistico con una punta di megalomania, ha preso una cantonata. Il 27 novembre Jimi Hendrix avrebbe compiuto 70 anni. Arriva nelle librerie italiane Jimi Hendrix, mio fratello, la biografia scritta dal fratello Leon con Adam Mitchell. Nell'edizione italiana c'è la prefazione di Enzo Gentile. Per la prima volta Leon si espone e fa un tuffo nella memoria, racconta dietro le quinte di un'esistenza davvero grama quando erano bambini. I due fratellini Hendrix vivevano in maniera davvero complicata, il padre era spesso assente, comunque anche coinvolto un po' nel vizio dell'alcolismo, la madre scompare giovanissima. Questo libro, che in parte sembra già pronto per una sceneggiatura cinematografica, indaga e fa luce su molti dettagli, episodi che anche gli appassionati più devoti forse non conoscevano. Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare il giorno. Riceverà l'8 dicembre a Novara la Targa Tenco 2012 come miglior interprete. Il 1 dicembre sarà ad Aulla per il premio Lunezia, che ha ricevuto come miglior live. Tanti premi per Baccini canta Tenco di Francesco Baccini, che a Tenco ha sempre somigliato. Mi ero scritto il primo anno di università e prendo l'ascensore con un signore che sarà anche lui, e a un certo punto arriviamo a piano terra e questo mi dice: guardi, scusi, posso dire una cosa? Lei è veramente impressionante. Mi dice: guardi, lei è uguale a mio fratello, io sono Valentino Tenco, piacere. Io ho avuto la fortuna di essere per un periodo della mia vita amico di Fabrizio, di André, e Fabrizio era amico di Luigi. E anche Fabrizio a volte mi chiamava Luigi, perché mi diceva: benissimo, siete uguali. Addirittura mi diceva: ma fumate nello stesso modo. La grande magia di Edoardo torna al Piccolo Teatro di Milano a 27 anni dalla celebre messa in scena firmata da Giorgio Strehler. A dirigerla e interpretarla è Luca De Filippo. Diciamo che in questo momento, che è un momento abbastanza difficile, critico della nostra società e in generale proprio, ho sentito la necessità già da qualche anno di recuperare energicamente le mie radici, la mia tradizione, e perché secondo me è importante radicarsi bene e esprimere all'esterno quelle che sono le tue esperienze. E per la seconda edizione del GR Spettacoli è tutto. Da Marta Cagnola ancora l'augurio di una buona giornata.